Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma che vi ha tenuto compagnia per tutto l'anno, ogni domenica, un po' scocciandovi con questa storia del multitasking che è una fregatura, ma credendoci veramente, ognuno ha le sue ossessioni e lasciateci questa. Bentornati allora, Nessuna è perfetta, questa è l'ultima puntata della stagione, ma non vi lasceremo in realtà, perché Nessuna è perfetta tornerà sempre tutte le domeniche a luglio con un best of delle puntate che abbiamo con le quali ci siamo fatti compagnia domenica dopo domenica in tutto l'anno, e ad agosto vi terremo compagnia tutti i giorni. Ed essendo questa l'ultima puntata della stagione, essendo ormai estate e avendo anche voglia di una sana botta di energia, di ottimismo, il sole poi trasmette energia e ottimismo, ecco, allora all'ottimismo dedichiamo questa puntata, sempre in relazione ai temi che ci appassionano, che ci riguardano, che sono il lavoro visto da un punto di vista femminile. Perché parliamo di ottimismo? Non soltanto perché appunto manca poco alle vacanze ed è meglio disporsi con un sorriso, anche nel caso uno le vacanze le dovesse saltare. Parliamo di ottimismo legato al mondo del lavoro, perché un articolo pubblicato dalla rivista scientifica di Harvard Business Review è proprio intitolato "Come proteggere il lavoro ai tempi della recessione". Le autrici di questo studio pubblicato dalla Harvard Business Review, "Come proteggere il lavoro ai tempi della recessione", le autrici Janet Banks e Diane Cotul sostengono che apparire sereni, ottimisti e disponibili siano le qualità vincenti per restare a galla in momenti di crisi. Loro dicono apparire. Io sono convinta che dopo un po' in cui uno si sforza, no, di apparire ottimista, beh, qualcosa scende dentro e si finisce per diventare davvero un po' più ottimisti. Comunque, le due ricercatrici dello studio pubblicato dalla Harvard Business Review hanno studiato le caratteristiche, i comportamenti, i caratteri delle persone che sono riuscite a superare la lunga recessione che abbiamo attraversato, che in qualche caso, almeno in Italia, non è ancora conclusa del tutto. E hanno fatto delle valutazioni su quelle che, pur essendo a rischio di licenziamento, per esempio, non sono state licenziate. Hanno scoperto, sostengono loro, che si trattava di soggetti allegri, generosi, non necessariamente i più esperti o i più competenti, ma tendenzialmente portatori di sorriso, capaci di condividere, di essere persone piacevoli. Risultato, conclusione alla quale arrivano Janet Banks e Diane Cotul: i musi lunghi tra le scrivanie o alla catena di montaggio, dovunque si lavori, ricordano a tutti che è un momento difficile, e per questo, quando si tratta, diciamo, di selezionare, di fare una scelta spesso dolorosa tra dipendenti, chi sorride, chi ha una disponibilità, diciamo, anche attitudinale, nelle attitudini, a trasmettere serenità, ha più chance. Voglio sapere cosa ne pensa il nostro agente provocatore. Benvenuto, buona domenica, Enrico Bertolino, che abbiamo visto in tutti questi mesi alle prese con la sua rassegna stampa a carta bianca. Noi abbiamo avuto Bianca Berlinguer ospite qualche puntata fa. Bertolino, Harvard Business Review dice che i manager danno valore a chi dà chi contribuisce a rasserenare l'atmosfera generale con energia positiva. Quindi tu non saresti mai stato licenziato quando lavoravi in banca? Beh, quando lavoravo in banca avevo un altro umore, oggettivamente. Ah sì, non eri così brillante. No, ma lo ero comunque, perché poi alla fine mi ero fatto un'idea, no, che dopo aver fatto la scuola canonica, dopo aver, non avendo frequentato ancora l'università, l'ho fatta durante il periodo di lavoro, dopo aver superato il servizio militare, avevo la necessità di lavorare. E questa necessità ha aguzzato, oltre all'ingegno, anche l'umore, perché l'essere negativi non portava niente. Poi era un periodo in cui o in banca venivi assunto con la raccomandazione, cioè che all'epoca bisognava andare anche dal parroco a farsela firmare, oppure ti presentavi sorridente. Io ho fatto già una cosa a livello di humor particolare: i curriculum che ho scritto li ho consegnati alle banche con delle belle hall solari. Cioè, le ho consegnate delle banche a Milano, dove mi sarebbe piaciuto lavorare, perché anche l'ambiente di lavoro penso che determini l'ottimismo. Non c'è dubbio. Poi mi hanno accettato, mi hanno assunto prevalentemente, qui già un lato umoristico, perché mancava un giocatore di calcio. Ah, ecco, cioè, tu avevi anche questa qualità. Ma è andata bene. Si può trasformare un soggetto che, diciamo, è un po' cupo, pessimista, sorride poco, in uno che sorride alla vita, che si apre ai colleghi? Bisogna fare delle scuole, ci sono dei corsi, oppure se uno nasce pessimista resta pessimista tutta la vita? Ma guarda, la cupezza poi deriva un po' anche dalla prospettiva di vita di ciascuno. Non escludo che ci sia la possibilità di insegnare l'euforia. Ci sono additivi chimici per quello, che però non suggerisco. Non suggeriremmo, no. Ecco, l'idea che io ho frequentato quando ero poi in Inghilterra a lavorare con questa banca che poi mi assunse, mi ha mandato un anno in Inghilterra. Quando ero là ho frequentato dei corsi di formazione, degli stage, dove si cercava di spiegare, ad esempio, che erano chiamati gli smiling courses, praticamente insegnare a sorridere alle persone. Ma io credo che invece ognuno debba capitalizzare il suo carattere. Qui a Radio 24 si ride un sacco. Adesso, per esempio, dall'altra parte del vetro, Gaia e Alessandro stanno ridendo. Non so di che ridete, perché già il fatto che Enrico Bertolino vi faccia sorridere così è una buona cosa. No, è buona. Guarda, io quando le persone ridono di me, io sono felice. Mio padre, buonanima, ne era abbastanza preoccupato, perché vedevo che ho lasciato la banca per fare il cabaret. Mi venne a vedere a teatro una volta e mi disse: "Ma guarda, ma non vedi che ridono di te? Guarda che è una fortuna." Sì, infatti. Una fortuna. Però ti dicevo, guarda, gli smiling courses non funzionano, perché poi ci bisogna adattare il proprio umore alle situazioni. Io proprio quando lavoravo allo sportello in banca, se c'era una persona in centro a Milano che entrava da me e mi chiedeva di fare un'operazione con la macchina in terza fila, con i vigili che gliela stavano portando via, non puoi sorridere a una persona così. Cioè, bisogna adattare il proprio umore a queste situazioni. L'importante è che caratterialmente ciascuno abbia un componente, che è l'entusiasmo. L'entusiasmo si può manifestare non sempre sorridendo, o si può manifestare anche con l'attività, con la proattività, che vuol dire muoversi prima che gli altri te lo chiedano. Certo, ma tu ci credi a questo studio della Harvard Business Review? Oppure la verità è che quando una grande azienda decide che fa meno di 30.000 persone nel mondo, come spesso succede, hai voglia a sorridere, ma quelli non sanno neanche chi sei un numero, quindi sorridere vale meno? Oppure invece conta, perché anche poi il direttore delle risorse umane del piccolo centro che fa capo al grande centro multinazionale manda delle segnalazioni? Ma guarda, io penso che sia importante in ogni caso mantenere un giusto equilibrio, ma queste multinazionali di cui parlavi prima, che a volte licenziano indiscriminatamente, non guardano chi licenziano, sbagliano a priori, perché quello che conta per un'azienda, al di là dei prodotti e dei servizi, è il rapporto con i clienti. Finché esistono i clienti, esistono le aziende. Io ho notato che i clienti, e io come cliente, se entro in un ristorante mi sorridono, mi fermo e anche sorvolo su alcune inesattezze, quali ad esempio il ritardo nella consegna, non certo sulla qualità del cibo. Però il servizio è fondamentale. Quando parlavo con Gualtiero Marchesi tempo fa, mi raccontava che noi siamo amici da anni, e Gualtiero mi ha detto che adesso sono tutti Masterchef, ma che all'epoca, quando lavorava con Ducasse, la sala valeva il 60% in Francia e la cucina il 40%. Vuol dire serve che le persone percepiscano un buon umore di fondo, che deriva soltanto da uno star bene con se stessi. Poi, se uno dice che c'è ottimismo o pessimismo, mi rifaccio a una frase di un francese, un grande velista, che era un scrittore del Settecento, si chiamava Nicolas Sébastien Roche, E questo diceva che il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista aspetta che il vento cambi, il realista aggiusta le vele. Ecco. Secondo me è tempo di aggiustare le vele, cioè non abbandonarsi all'eccesso, e se un'azienda decide di licenziarti devi fartene una ragione, con fatica, perché alcuni poi hanno famiglia e mutuo, però se hai una buona reattività, che oggi chiamano resilienza ma secondo me è un po' sbagliato, la reattività vuol dire che proprio perché mi mandate via, se sono ancora in grado di dire la mia, vado e dimostro a voi che mi avete mandato via e anche a me stesso di essere ancora importante. Senti Enrico, tutti noi nella vita abbiamo avuto un momento in cui appunto è finito un ciclo di lavoro, oppure ci hanno detto grazie, quella è la porta, è successo a tutti almeno una volta nella vita. Tu l'hai presa a ridere? No, non tanto, perché quando mi è successo in Rai, che mi hanno dopo 3 puntate fatto saltare il programma, non mi ero divertito molto. Sono rimasto una settimana tramortito in un residence a Roma, aspettando chiuso, che qualcuno mi dicesse qualcosa. Con le serrande abbassate? Sì, no, anche perché l'ho saputo dalla costumista, che non ero più io conduttore, per cui era una cosa che mi ha lasciato anche un po' male. Però ho detto, io vedo in tutto una sorta di fatalismo, no? E poi Giacomo Leopardi, che è uno degli scrittori preferiti, anche perché per essere ottimista devi avere la cognizione del dolore, e Giacomo Leopardi diceva che se tu ti aggrappi al ferrigno stame della vita che le parche avvolgono, ti fai male. Cioè quando c'è un destino si vede che quel programma non era mio, il ferrigno stame è il filo di ferro, se tu ti attacchi con le mani al filo di ferro mentre qualcuno avvolge la matassa, te le tagli le mani, certo. Per cui lascialo andare, cioè così doveva essere, così è stato, e da lì sono poi stato chiamato da Gregorio Paolini a fare convention ed è iniziata una carriera parallela molto molto gratificante. Ma infatti a Roma si dice si chiude una porta, si apre un portone, noi ecco, che non dia su un baratro e che il portone e che non te la sbattano contro il muso. Grazie, grazie Enrico Bertolino. Buon'estate, grazie. Anche a te buon'estate. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati. Lo sapete, questo è il momento della nostra Sunday Girl. E la nostra Sunday Girl di questa puntata estiva è Teresa Ciabatti, scrittrice, sceneggiatrice italiana, finalista nella cinquina dell'edizione 2017 del Premio Strega. Sapremo chi vincerà il Premio Strega il 6 luglio. E Teresa Ciabatti lo è in cinquina col suo ultimo romanzo, La più amata, romanzo Mondadori. Buona domenica, benvenuta Teresa Ciabatti. Grazie, buona domenica a voi. Faccio una sintesi rapidissima del romanzo. Al centro c'è il padre, Lorenzo Ciabatti, medico, uomo potente, legato a Licio Gelli, quindi massone, un uomo autoritario che aveva anche amici fascisti che erano stati coinvolti nel golpe borghese. Lorenzo Ciabatti ama a suo modo la moglie Francesca Fabiani, medico, una donna autonoma, la ama ma le rovina la vita e anche lei lo ama in un rapporto che evidentemente la figlia Teresa osserva con qualche coinvolgimento. Teresa è la più amata, il titolo del romanzo. Oggi ha 44 anni e ha deciso di raccontare dal punto di vista di una ragazzina allevata come la principessina di un inesistente principato della Maremma, di raccontare questa storia di famiglia. La prima cosa che mi viene da chiederle, Teresa, è il primo capitolo è dedicato appunto al padre ed è il prescelto. Il titolo è La più amata. C'è un po' un'ossessione per la perfezione, a noi invece che ci piace insomma essere molto imperfetti, dal titolo del programma Nessuna è perfetta, e facciamo abbiamo ormai fatto i conti con le tante imperfezioni, pensiamo che faccia bene essere imperfetti, questa ossessione ci incuriosisce un po'. È un po', diciamo, l'intenzione del libro, la vera storia del libro è questo, cioè una partenza, l'ideale di perfezione e di privilegio, quindi che il padre trasmette anche a questa bambina che si sente anche lei la prescelta, si immagina Presidente della Repubblica, ballerina, qualsiasi cosa, e poi c'è la caduta e si fa i conti invece non solo con i difetti, ma con i limiti, ma con la normalità. A un certo punto la domanda del romanzo è chi è Teresa Ciabatti, e la risposta è molto deludente, sì. Ovvero è una donna qualunque, che quindi più però perfetta è... di così. Era stata educata per essere appunto straordinaria. Sì. Ma nella storia di questa famiglia, interessante senz'altro, c'è anche... un misterioso sequestro. Suo padre viene sequestrato davanti agli occhi dei familiari mentre era ai bordi della grande piscina di casa. Che successe? Allora, dunque, io lui viene sequestrato per un giorno e poi quello che viene raccontato, insomma, ora parlo del libro, dei personaggi, sì, del libro, perché è che è stato un tossico della zona e nessuno, anche dopo la morte del padre, chiede cosa sia successo in realtà. Come tante domande non fanno questi bambini, poi ragazzi, poi adulti, fratello e sorella, e quando muore anche la madre si ritrovano con un passato pieno di buchi, perché non hanno chiesto niente e hanno ricostruito a modo loro, fra l'altro in modo diverso l'uno dall'altra, l'infanzia e quello che è stato. E il tentativo è quello di risolvere i misteri. Ma in realtà è impossibile, insomma, siamo destinati, cioè diciamo la scoperta è quella che la verità conta poco, importante è quello che noi abbiamo percepito e che ci ha formato davvero. C'era questo misterioso anello massonico, sì, un anello d'oro che suo padre portava sempre, non se ne separava mai, e che a un certo punto sparì. L'avete ritrovato? Sì, l'abbiamo ritrovato un mese fa. Per caso, tipo un messaggio divino, non so, oppure... E dov'era? Minatorio. In casa di mio fratello, dentro una cassaforte, non l'ha mai guardato, vabbè. E quindi è stato ritrovato e io l'ho preso un po' come... Io ti guardo, stai attenta. Però, insomma, ma... è l'unica cosa che abbiamo ritrovato. Ma perché nella sua definizione, non so se sia proprio lei, ma nel romanzo... La protagonista, la più amata, si definisce una fallita di mezza età. Noi vogliamo dedicare questa puntata all'ottimismo, vogliamo farle cambiare idea. Allora, no, proprio insomma, fa parte del rapporto con la verità. Da che uno non si guarda in modo completamente idealizzato, no? Quindi si vede bellissimo, meraviglioso, e a un certo punto dopo la caduta riesce a vedersi per quello che è, magari anche esagerando nell'altro senso, però è importante questo confronto con la realtà e anche con se stessi. Poi 44 anni, purtroppo sono 44 anni. Tra l'altro io me li sono sempre diminuiti. Senta, però nel prendere atto di come si è, no? Certamente fare i conti con la verità e con la realtà è un grande aiuto. Secondo Nessuno è perfetta passa anche per l'accettare i nostri lati deboli e pensare invece di rafforzare, costruire e confrontarsi di più con i punti di forza, piuttosto che stare lì a macerarsi sui punti deboli. Ciò detto, dal romanzo emerge anche il fatto che lei ci gioca un po' con ironia, con leggerezza, sul fatto di avere normalmente tanti difetti. Sì, e anche sulla mitomania passata, quindi su proprio, diciamo... L'ironia è quello che non si è realizzato da una partenza che sembrava, da un inizio che sembrava così promettente, invece non si è realizzato. Ma perché non si è realizzato? Non si è realizzato perché io non ero una bambina speciale, ero una bambina come tutti e a un certo punto l'ho capito, è stata la mia salvezza in qualche modo. E, dopodiché io, diciamo che questa bambina del romanzo non vive... fino a un certo punto, rimanendo nel paese, non vive il rapporto di causa e effetto, cioè ogni azione che lei fa non ha conseguenze, e quindi le viene, perché è molto protetta, quindi le viene in realtà viene privata dell'esperienza e si ritrova a 16 anni quasi senza avere una vita dietro, perché non ha quella parte lì, l'esperienza proprio, e la deve recuperare. C'è una parte, diciamo, di adolescenza molto più affannata, disperata, perché è quello che non ha fatto prima. E dopo 16 anni, arrivano tutte le cadute, i fallimenti. Ma insomma, io penso questo a livello così, come personaggio del romanzo, ma fuori dal romanzo, come autrice, io penso che i fallimenti, le cadute siano, cioè, fanno lo scrittore. Non c'è dubbio, ma fanno anche l'essere umano. Abbiamo dedicato la puntata di una settimana fa proprio alle cadute e alle risalite. Quindi, per carità, siamo dei grandi sostenitori dei fallimenti. Comunque, tanto per chiudere, Teresa Ciabatti, mica è andata tanto male, È una scrittrice di successo, una sceneggiatrice di successo, eppure nella cinquina finale dello Strega, per essere bene. Imperfetta, non è andata male per niente. No, infatti, bene, bene. Ci ho messo tempo, tanti fallimenti in mezzo, questo è importante. Noi pensiamo che siano, come dire, la chiave per capirsi e quindi poi per fare i conti con la realtà, sì. E dunque alla fine per fare delle belle cose come sta facendo lei. In bocca al lupo e buona domenica a Teresa Ciabatti. Grazie, la nostra Sunday Girl di questa settimana. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo e c'è la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno nella nostra terza parte di Nessuna è perfetta. Lo sapete, è il momento dei nostri esperti, che questa volta sono due esperte, ve le presento subito. Livia Aimonino, manager nel campo della comunicazione, con una grande passione che è la cucina, e ha messo insieme le due cose nel suo romanzo pubblicato da Giunti, appena pubblicato da Giunti, La lunga notte di Adele in cucina, romanzo, ricettario e viceversa. Benvenuta Livia Aimonino. Buona domenica a tutti. E Sabrina Corbo, fondatrice con il marito di Green Network, che è l'ottava azienda fornitrice di energia in Italia. Hanno un fatturato di 1.800.000.000 l'anno, vicepresidente di Green Network UK, e appunto ci segue da Londra. Benvenuta Sabrina Corbo. Buongiorno a tutti. La puntata di oggi è dedicata all'ottimismo, parte da questo studio della Harvard Business Review, secondo cui al momento di dover decidere, purtroppo in tempi di recessione, chi tenere e chi lasciare andare nelle aziende, spesso si tende a tenere i dipendenti che sono capaci di sorridere, di farsi coinvolgere, di fare una vita di azienda senza troppo musi lunghi. Per cominciare io chiederei a Livia Aimonino, che nel suo romanzo racconta up and down, una vita anche legata a una figura paterna molto forte, un famoso architetto, Carlo Aimonino. Tra l'altro, bizzarramente, la nostra Sunday Girl di questa puntata che ha avuto prima, Teresa Ciabatti, anche lei ha un rapporto con un padre molto, molto potente e presente. Dunque, negli up and down, però, nel romanzo La lunga notte di Adele in cucina c'è sempre il sorriso, c'è sempre il modo di scherzarci su. Assolutamente sì, ma diciamo, a parte che ho letto il libro di Teresa Ciabatti, che peraltro mi è piaciuto molto, e abbiamo due padri ingombranti, ma molto molto diversi, e anche forse l'approccio, cioè ognuno di noi è, diciamo, a suo modo affronta le cose complicate della vita in un certo modo. Il mio approccio, e in questo sono grata oltre a mio padre anche a mia madre, cioè alle persone, come dire, le famiglie da cui provengo, ritengo che una delle cose fondamentali nella vita è che si può e si deve ridere di tutto, naturalmente non in maniera stupida o in maniera superficiale, ma che ogni cosa che ti può capitare, anche molto drammatica nella vita, ha anche un risvolto ironico, perché l'ironia poi ti serve ad approfondire le cose, non a negarle. Ecco. Ci sono dei momenti infatti nel romanzo molto divertenti, soprattutto la descrizione dell'infanzia, le merende romane, quando appunto la piccola Adele, che poi sarebbe Livia, fa un po' la differenza tra le merende nelle case aristocratiche dove ti danno mezzo yogurt e quelle invece nelle case degli impiegati romani dove ti riempiono di dolci, eccetera. Ma è un romanzo molto divertente, ve lo consiglio davvero. Senta, Sabrina Corbo, l'ottimismo credo che abbia giocato un bel ruolo nel momento in cui nel 2003 con suo marito ha fondato Green Network partendo da zero. Avevate 10.000 euro di capitale. Sì, assolutamente, io sono forse la più ottimista tra i due, perché comunque è il carattere che mi contraddistingue, e poi probabilmente anche vero che aveva bisogno di una spinta, perché comunque alla fine, ecco, questo business è nato dalla sua esperienza pregressa in Enel, quindi comunque aveva veramente bisogno di una spinta sicuramente emotiva e poi, ecco, anche lavorativa. È un bel mix, marito ingegnere, quindi sì, solido e... Sì. Non proprio particolarmente ottimista, uno dice gli ingegneri no, non sono molto, proprio quelli. No, molto figures, come dicono, molto numerico, che è giustamente la giusta accoppiata, dico io, perché in realtà appunto siamo complementari, e forse questo è stato anche il motivo per cui questa azienda è nata veramente con due persone semplicissime, e è arrivata anche ad essere una realtà solida e ad affrontare anche quindi il mercato in UK, proprio perché dalla nostra complementarietà riusciamo a tirare il meglio. Siamo entrambi caparbi, io sono una, ecco, parlavamo dei genitori, mio papà è un generale dell'arma, adesso in pensione, ma è stata una persona che mi ha dato quella grinta, quella stabilità anche probabilmente psicologica e mentale di riuscire ad ottenere quello che in realtà si... Però, almeno a provarci, dico. Sabrina Corbo, è vero che ci vuole la competenza tecnica, sì, e molto, quella ce sì, l'ha messa suo marito. Assolutamente. Poi ci sì, vuole la determinazione, questa ce l'ha messa lei, figlia di un generale sì, dell'arma. Sì, sì. Però poi, partendo... Ho studiato tanto, perché in effetti non sapevo assolutamente cosa facesse mio marito nel 2003, quindi di fatto... Quindi lei invece di dire, vabbè, allora continuo a fare, non so che lavoro facesse prima... Oppure... Io ero legale, avevo in studi commerciali internazionali, quindi facevo tutt'altro, parlo quattro lingue, quindi ero completamente un'altra natura, un altro sogno e un'altra... Diciamo, lei ha detto, io metto le mie competenze sì, a fare qualcosa che non ho mai fatto prima e vediamo se ci sì, riesce. Sì. Io sono stata quella che in realtà ha rilanciato di più, perché comunque lui ha il suo mondo, i suoi studi, è un ingegnere elettrico. Io sono stata quella che si è reinventata, che si è presa i libri, che si è studiata la situazione e che di fatto ha dato la massima apertura, se vogliamo, a questa idea. Ecco. È ovvio che quindi dopo 10 anni mi è venuta anche più facile poi a quel punto dire, ma lo posso rifare in Inghilterra, no? Perché comunque la mia natura è quella che è tanto ottimista sicuramente, e ma poi la... Mai fermarsi, mai fermarsi. Ecco, neanche Livia Aimonino si è mai fermata. Nella sua vita ha fatto tanti lavori, sempre nel mondo della comunicazione. Ma tra l'altro volevo dire a Sabrina che io ho due nonni militari, per cui forse diciamo, la disciplina è anche molto legata all'ottimismo, perché poi quando tu pensi che una cosa è importante e la persegui fino in fondo cercando anche di essere vitale, per cui vedi le origini militari si vede che aiutano, ecco. Nel romanzo La lunga notte di Adele in cucina si passa attraverso i decenni, gli anni 60 che erano pervasi di ottimismo, era l'Italia del boom, gli anni 70 pervasi di pessimismo, quel periodo passato a New York, raccontaceli un po'. Dunque, diciamo, la premessa di tutto questo libro è che lei è una donna che sta per compiere 60 anni, va in cucina per l'insonnia sopravvenuta dall'età e inizia a cucinare per tutta la notte dei biscotti, e lì si ricorda, diciamo, pezzi della sua vita legati avanti e indietro nel tempo, con anche delle ricette, ma non solo. credo che la nostra generazione, o almeno la mia o quella che va dai 55 ai 65 anni, sia una generazione che arriva, come dico io, all'orlo della vecchiaia in motorino e senza casco, perché è una generazione che ha avuto un noi talmente importante, talmente forte, che ha fatto sì che noi abbiamo prolungato la giovinezza in un'eterna adolescenza che è arrivata canuta e poi arriva alle soglie di questa vecchiaia sconosciuta e non sa bene come fare. Però proprio per quello che dicevi te, cioè quello che dicevate voi, cioè gli anni che passano, per cui uno passa dagli anni 60 che erano delle promesse e delle premesse, agli anni 70 che partono altrettanto in maniera diversa e anche molto fragorosa, ma partono, quello che io dico nel libro, partono pieni anche quelli di premesse, di promesse, perché all'inizio degli anni 70 sembrava che tutto il mondo fosse in mano a noi ragazzi e che tutto fosse possibile. Poi vengono inabissati dal rapimento Moro, dal terrorismo, dalle droghe, poi di nuovo si riparte, no? Con gli anni 80, le bollicine, Brollanti. Tra l'altro Adele si trasferisce a Milano e vede proprio tutto il cambiamento di Milano, da quello dei cappotti blu fino alle meduse di Versace, no? Poi c'è di nuovo un rinabissarsi con Mani Pulite e poi c'è il ritorno a Roma che è, come dire, più sfaccettato e variegato, però sono stati anni molto contraddittori, no? Sia gli anni 60 che gli anni 70 che gli anni 80 e anche 90, però secondo me se poi uno ha la forza di viversi, di godere e di imparare, continuare a imparare sia nei mestieri che in cucina, io mi sono sposata due volte e ho dei figli, una grande famiglia allargata, secondo me poi il bandolo della matassa si trova. Sabrina Corbo, com'è stato trasferirsi a Londra con tre figli piccoli, due cani e cercare anche di far diventare di successo internazionale l'azienda che era stata fondata 10 anni prima? C'è avuto molto, molto ottimismo, eh? Sì, c'è voluto molto ottimismo, sicuramente, molto molto ottimismo, anche un pizzico di incoscienza, dico io, che poi è tipico secondo me di noi donne. Ecco, almeno nella coppia, ecco, visto che mio marito appunto è così razionale. Io l'ho sentito sul business, visto che c'era un'opportunità, per il primo anno avevo comunque creato un primo embrione di azienda qui e facevo su e giù tutti i mesi. Dopo 8 mesi ho visto il potenziale che c'era e a quel punto la domanda è stata quasi retorica, nel senso che quando si vede che si possono avere dei ottimi risultati diventa difficile per un imprenditore rinunciarci, perché è come se aver visto qualcosa e far finta di non averla vista, ma non è possibile. Quindi il discorso era sempre lì, noi abbiamo sempre dato l'esempio in azienda, siamo comunque, sì è vero, imprenditori, ma i primi operativi in azienda, i primi ad arrivare la mattina, i primi a tornare la sera, e forse è questo esempio che ha fatto sì che abbiamo un'azienda comunque creata con zero debito in 15 anni, quindi di cui mi sono accorta del valore da quando sono arrivata qui a Londra, che loro mi guardavano, gli inglesi mi guardavano quasi incredibilmente entusiasti di questa cosa, perché abbiamo persone che lavorano da noi da 15 anni e quindi con un turnover pari a zero, quindi diamo un buon esempio. Quindi mi sono detta, se io non ci credo in questa cosa per prima, come posso chiedere a qualcuno della mia azienda di trasferirsi a Londra e di costruire un business nel quale la interrompo brevissimamente. Risposta fulminea. Questo ottimismo c'è anche ora, dopo mesi in cui Londra è al centro di attentati? Sì, l'ottimismo c'è, perché comunque è una città che offre tanto, comunque per quanto mi riguarda il business va benissimo e sono molto contenta, anzi va oltre ogni aspettativa. Certo è che se lei mi dice invece dal punto di vista della vita qui, io non mi aspettavo, ecco, di vivere questi anni e questo periodo a Londra. Quando mi sono trasferita 3 anni fa era tutt'altro, era molto diversa. Oggi sinceramente siamo abituati ad avere un brivido lungo la schiena quando sentiamo una sirena, ormai è tutti i giorni, ecco. Livia Imonino, per chiudere invece con la nota ottimista che è il fil rouge di questa puntata, La generazione che descrive il romanzo La lunga notte di Adele in cucina è una generazione un po' così scapestrata, no? Sì. Ma non perché sono una vita da scapestrata. Beh, magari un po' sì, anche comunque matrimoni, figli, lavori. È una generazione un po' così, non tutti, non vogliamo generalizzare. Se dovessi individuare, nel tuo romanzo hai fatto proprio un lungo viaggio attraverso i decenni, no? La cosa che caratterizza di più la generazione di Adele, le donne della generazione di Adele. Le donne sicuramente, cioè le donne che comunque sono riuscite a attraversare tutto, diciamo, questo tornado, e però poi a ritornare anche a riprendersi in mano il loro destino, e moltissimo il noi, cioè la cosa che io penso ci ha fatto da un lato scapestrati ma dall'altro forti è che tutto era in condivisione, e quel processo mentale è rimasto: quello che è mio è tuo, quello che non si trova lo troviamo da qualcun altro, cioè lo scambiarsi, questo noi che è diventato un soggetto di per sé, secondo me ha creato tanti equivoci, ma è stato proprio un modo di campare, e che non è male, secondo me. Grazie allora, grazie a Sabrina Corbo, vicepresidente di Green Network UK da Londra, grazie a Livia Aimonino, comunicatrice e autrice del bel romanzo La lunga notte di Adele in cucina, pubblicato da Giunti. Buona domenica a entrambe. Grazie mille. Grazie. Faircamp Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircamp.com. Vi presenta Nessuna è perfetta. Ecco, bentornati a Nessuna è perfetta, l'ultima parte del programma. Sapete che a questo punto c'è una lettera delle nostre ascoltatrici, invece questa volta invece della lettera c'è la storia raccontata direttamente dalla protagonista, Fabiana Ciafrei, storica dell'arte, 32 anni. Buongiorno a tutti, sono Fabiana Ciafrei, appunto, storica dell'arte, 32 anni, mi sono laureata appunto in storia dell'arte, e dopo un'esperienza in marketing e comunicazione applicata ai beni culturali decido di unire tutte quelle che erano le mie passioni, quindi la comunicazione e l'arte, fondando una mia società che si chiama Minerva for Arts. Che cosa fa Minerva, Fabiana? Allora, Minerva è una società che applica il metodo di studio e catalogazione che il Ministero applica ai beni pubblici, lo applica ai beni e quindi ai patrimoni storico-artistici dei privati. Parlo di catalogazione, archiviazione, censimento, studio, con un sistema a cui però viene aggiunto invece una stima per avere il valore concreto delle opere d'arte in virtù anche dell'efficientamento dei patrimoni aziendali dei privati. Quindi Minerva, la tua società, lavora sia con le grandi collezioni di grandi banche, grandi aziende, che con le collezioni dei privati. Sì, assolutamente sì. Noi ad oggi abbiamo, in un anno dalla nostra apertura, abbiamo raccolto tre grandi case history, che sono appunto il Telecom Italia, quindi abbiamo studiato, censito e catalogato tutta la collezione sparsa su tutto il territorio nazionale, di Olivetti, un lavoro che è appena iniziato, e delle Generali. Ecco, 32 anni, Fabiana Ciafrei ha messo insieme le sue passioni su un terreno che è quello del quale parliamo sempre all'infinito, definendolo il nostro pozzo di petrolio perenne, che è quello dei beni culturali. Allora, Carla Ciani, la nostra coach di questa puntata, dal racconto di Fabiana traspare senz'altro una bella energia, una carica di ottimismo che è il fil rouge di questa nostra puntata, ma anche molto concretezza, perché in Italia molti trentenni lavorano nel mondo del turismo, ma magari tendono ad aprire una pizzeria a taglio invece che mettere insieme le proprie passioni, come ha fatto Fabiana, cioè la competenza di storica dell'arte, la passione per la comunicazione, e metterle insieme col marketing. Dunque, la mia prima richiesta delle pillole della nostra coach è: come si fa a mettere insieme competenze e passioni e a tradurle poi in un lavoro che renda? Innanzitutto bisogna avere un sano ottimismo. una buona energia. La passione è il punto di partenza, no? Essere appassionati significa sentire quella cosa come tua ed essere depositaria dei contenuti di quella cosa. In più, con l'aggiunta delle competenze, abbiamo la certezza che possiamo concretizzare qualcosa che appartiene alla nostra passione. Come coach in tante aziende, hai potuto verificare che corrisponde al vero quanto sostiene la ricerca di cui abbiamo parlato per tutta la puntata, quella pubblicata dalla Business Harvard Review, secondo la quale quando si tratta purtroppo di arrivare al licenziamento le aziende tendono a tenere i dipendenti che sorridono più che quelli che sono pessimisti? Sì, insomma, dobbiamo fare alcune precisazioni. È una convinzione ancora diffusa, no? Che pessimismo e ottimismo siano delle, come dire, delle predisposizioni naturali e quindi non modificabili. E in questo senso dobbiamo tenere chi è predisposto all'ottimismo, no? Mm. Invece è ampiamente dimostrato che in realtà siano dei modelli comportamentali che noi assumiamo per le esperienze che abbiamo avuto nella vita, e se sono modelli comportamentali in realtà sono modificabili, quindi si può imparare ad essere ottimisti e cioè avere un atteggiamento che è favorevole a scoprire il lato migliore, no, della realtà e delle opportunità. Ci dici una cosa che secondo la tua esperienza di coach si può imparare andando a lezione di ottimismo? Devo fare una distinzione, perché oggi proprio sui comportamenti di questo tipo abbiamo le idee piuttosto chiare, direi. Cioè esiste un ottimismo cosiddetto ottuso, no? L'ottimismo che ha un che di ostinato, ma che in realtà è distaccato dai dati reali e oggettivi. Cioè l'ottimista ottuso tende a vedere la positività a tutti i costi, e questo nell'ambito aziendale è un po' rischioso, certo. Pericoloso, no? Nelle aziende l'ipergioioso a un certo punto arriva a dei livelli di inaffidabilità, mentre oggi lavoriamo molto, no, sulla creazione di questo comportamento e sullo sviluppo, diciamo, più che la creazione di questo comportamento, che è il comportamento dell'ottimista realista, cioè di colui che ha una capacità di considerare i dati reali e oggettivi, cercando in questi la positività, senza però negare gli aspetti come dire rischiosi e negativi della situazione. Quindi l'ottimista deve essere un ottimista realista. Un ottimista realista. Grazie Carla Ciani, grazie a Fabiana Ciafrei, storica dell'arte, che si è inventata una interessantissima società Minerva e con una buona dose, credo, di ottimismo e di realismo, no? Assolutamente sì, è sempre stato uno dei miei punti di forza, diciamo, ecco. Buona, in bocca al lupo a Fabiana Ciafrei, grazie a Carla Ciani e grazie, davvero grazie a tutti voi che in questo anno ci avete seguito con amicizia, con la simpatia che abbiamo riscontrato anche sui social con i vostri tweet. Grazie a Gaia Romani dietro l'altro il vetro della regia, grazie ad Alessandro, grazie a tutti i tecnici che ci hanno aiutato in questo anno, buona estate a loro, e come abbiamo detto all'inizio noi ci continuiamo a sentire per tutto luglio e ad agosto anche tutti i giorni.